Il traffico è impazzito. La viabilità è tragicamente conclusa. Siamo tutti lì in coda a bruciare risorse del pianeta, ad appestare noi stessi e chi c'è e chi verrà, se mai verrà. È un immondo fiume di automobili e dentro queste automobili avvengono gli stessi processi fisiologici. La gente che vorrebbe essere altrove si accumula adrenalina nel sangue e altri veleni. Come la città autocontraddice la propria ragione d'essere, offrire riparo, sicurezza, comunità, così l'organismo biologico autocontraddice la propria ragione di sopravvivenza. Si autodistrugge, produce da sé il male sotto forma di eccesso di ciò che dovrebbe salvarlo. Siamo tutti lì, in coda, fermi e intossicati. Siamo tutti lì quando dal frastuono emerge la sirena e dallo specchietto retrovisore lampeggiano i raggi bluastri di un'autoambulanza. È dietro di noi e la stiamo bloccando. Quel minimo di senso civico che ci rimane ci dice che deve passare, in un modo o nell'altro deve passare. E per piccoli spostamenti, millimetri rubati qua e là, un varco, alla belle meglio lo si crea. Pian piano, tra colpi di clacson e gesti allarmati, un varco si crea e l'autoambulanza passa. Orbene, mai, ma mai che passi sola. Come certi parassiti in coda ai grandi cetacei nel mare, e così c'è il furbo metropolitano che, prima che il varco si richiuda inesorabile, riesce a intrufolarsi e approfitta della breve scia di un'autoambulanza per avvantaggiarsi sugli altri automobilisti che, con faticoso senso di responsabilità, si sono fatti da parte. Dalle disgrazie, e l'autoambulanza allora di punta per chi c'è sopra o aspetta di esserci, le disgrazie le rappresenta tutte. Dalle disgrazie altrui, dicevo, c'è sempre qualcuno che ricava il proprio tornaconto. Il caso dell'autoambulanza appartiene a quel ben più diffuso modello di comportamento che potremmo definire come la ricerca della schiena buona. La schiena buona la cerca il corridore ciclista che voglia vincere una grande corsa in volata. In vista del traguardo, mai essere in testa. Molto meglio star dietro. Dietro qualcuno che o è pagato per portarti avanti senza farti faticare, o è presuntuoso a sufficienza per credere di potersi liberare di te con il massimo del proprio sforzo. Così, quando lo sforzo sarà bello e compiuto, le energie esaurite e il traguardo più vicino, ecco che colui che ha trovato la schiena buona salta fuori e, fresco come una rosa, taglia per primo il traguardo. La schiena buona, la schiena buona la cerchiamo noi tutti nelle resse. Se c'è uno grande e grosso e soprattutto irrispettoso, mettitici dietro con fiducia, lui magari non lo superi, ma gli altri sì. E a ben pensarci, la schiena buona la cerchiamo noi tutti nella vita. I dettami per una vita in contropiede comprendono di trovarsi qualcuno che, accorgendosene o meno, si assuma i carichi più onerosi anche per noi, ci copra in caso di bufera o ci faccia ombra quando le cose scottano e ci porti soprattutto in retta d'arrivo con il nostro minimo sforzo. Quando si è dietro una schiena buona, delle difficoltà della vita quasi non ci si avvede. I problemi passano come racconti perché alla loro soluzione è pervenuto sempre qualcun altro. Una storia naturale e culturale del parassitismo resta tutta da scrivere, ma ci direbbe parecchie cose utili sul paese in cui viviamo, sul posto in cui lavoriamo, sul modo in cui crescono i nostri figli, sulle responsabilità di ciascuno di noi in quell'ineguale sacrificio della convivenza comune. ci insegnerebbe soprattutto che solo a posteriori la schiena è davvero quella buona. Perché l'autoambulanza può anche portarti nel vicolo cieco, perché chi ti tira la volata può chiedersi che senso abbia il proprio martirio, perché là davanti, in famiglia, in ufficio, nelle forme associative di cui partecipi, là davanti, improvvisamente, qualcuno decide che è ora di smetterla. O, più banalmente, fa uno sbaglio che prima o poi paghi anche tu. Come quella volta in autostrada, ormai vicino al casello, no? Quando il fiume di auto cominciava gradualmente a dividersi in file per adire al pagamento del pedaggio. Scelgo un'auto e mi ci piazzo dietro. Dopo un po' non ci si muove più, mentre le file al mio fianco misteriosamente man mano, anche se lentamente, si smaltivano. Dopo un quarto d'ora ero assolutamente, rigorosamente al medesimo posto, fermo. Non si vede altro che automobili, allora dico a mio figlio se scende a vedere un attimo cosa succede. Lui va e dopo un po' torna scuotendo la testa. Non avevo azzeccato una schiena buona, no, non avevo azzeccato una schiena buona. In corrispondenza della mia fila non c'era alcun casello. Bye.